Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopo un anno e mezzo è il momento che torni a Roma. Il master è finito. Di Ariane non ho più notizie. Non so che fine abbia fatto. Non so niente di niente. Io però non nascondo di pensare ancora a lei. Sono Edoardo Rinaldi, sono un ragazzo di Roma, studio giurisprudenza e ho 26 anni, quasi 27. Mi capita spesso di cadere. Capita a molti e tutti se ne fanno una ragione, a meno che le conseguenze della caduta non siano gravi. Roba che tocca chiamare qualcuno che ti trasporti da qualche parte dove altri ti raggiungeranno per chiederti com'è successo. Insomma, quel genere di cosa lì. Il fatto è che io cado proprio di continuo, con una frequenza impressionante, e sempre quando ci sarebbero ottimi motivi per non farlo. Le 16:08 minuti, Radio 24, buongiorno a tutti. Voi siete qui, è il nome di questo programma, e invece le più strepitose cadute della mia vita è il nome del libro da cui vi ho letto queste poche righe, scritto da Michele Dalai in realtà un paio d'anni fa, ma che oggi sfrutteremo per un paio di motivi. Il primo è quello che avete sentito, il secondo perché nella seconda parte sentiremo l'autore, cioè Michele Dalai, e gli chiederemo qualcosa riguardo del tema della puntata di oggi. Perché, per chi non l'avesse ancora capito, questo è un programma che racconta storie, ma parla di argomenti. È detto così, ragazzi, è un tema, è una puntata che sceglie una storia e cerca di capire qual è il cuore di quella storia lì. La storia di oggi, ad esempio, è una storia molto semplice. La storia di Edoardo è una storia che credo sia capitata a moltissime persone, cioè ci si invaghisce di una ragazza e si fa una stupidaggine. Un errore, ma nemmeno una stupidaggine, un errore di valutazione, comunque un errore. Ad esempio, come nel suo caso, si cerca di baciarla quando è il momento sbagliato e ci si compromette al rapporto con lei. Poi però succedono altre cose. Una storia semplice, ma che racconta qualcosa, racconta di un errore. 349-238-6666, ecco perché oggi parliamo non di un errore particolare. Ma se vi prendete 30 secondi per rifletterci, oggi parliamo degli errori che avete compiuto che più di altri raccontano qualcosa di voi. 349-238-6666. Per errori intendo errori veri e propri, che so io, un rigore sbagliato se giocavate a calcio, un tiro libero se giocavate a basket, oppure se avete passato un rosso, quindi non avete fatto l'errore di non vedere un verde ed è successo qualcosa. Un errore però, una caduta, una piccola caduta, come le chiama appunto Michele Dalai nel libro da cui vi ho letto le prime righe, una caduta che in qualche modo vi rappresenti, che quando ci pensate voi dite: sì, effettivamente io sono fatto anche e soprattutto in quel modo lì. Gli sms sono al 349-238-6666. Invece, se avete un computer davanti, e se avete un computer davanti ed è acceso, avrete sicuramente Facebook aperto. Voi siete qui, Radio 24. Ci trovate oltre tutte le cose delle puntate scorse. Sì, ci trovate anche la foto di ieri di Agnese, che insomma ha creato molto scalpore, non solo per quanto è bella lei, per quanto è bella la foto, ma per la storia in generale. Ci trovate anche alcuni pezzi della puntata di oggi, la storia di Edoardo e soprattutto gli errori compiuti che dicono chi siete voi. Questo errore qui è stato l'errore di Edoardo. Tre anni fa vinco una borsa di studio per un master in Francia. Ho grande voglia di cominciare questo master e di mettermi alla prova in un'altra realtà. Il primo giorno di lezioni, però, mi segna per un'altra ragione. Nel mio stesso corso c'è una ragazza francese. La guardo e ho un brivido. Sono stordito. Ritorno alla residenza universitaria con un grande desiderio di voler conoscere quella tipa. Le lezioni successive mi permettono di avvicinarmi a lei, di conoscere il suo nome, Ariane, e di fare la sua conoscenza en passant. Da quel momento non desidero altro che poterle dire quanto mi piace. Precisamente era tre anni fa, ero esattamente a Parigi, stavo facendo un master in diritto europeo. Ero iscritto dalla facoltà di giurisprudenza di Roma e ho conosciuto Ariane perché è anche lei iscritta come me al master in diritto europeo, ed eravamo tutti e due, insomma, sconosciuti, non ci conoscevamo allora. La buona occasione arriva qualche mese dopo l'inizio dei corsi, una festa alla mia residenza universitaria. Lei è invitata e viene da sola. balliamo come due bambini, siamo complici. Lei è felice, io credo che può essere la serata giusta. Durante le danze la invito a fare due passi, lei accetta. Usciamo da quel frastuono, a un certo punto mi arresto e cerco di baciarla. Lei si ritrae, mi allontana e mi guarda con aria stupita. Non capisce quel gesto, mi dice che è un ragazzo, che gli è fedele, è sorpresa e se ne va, irritata. Si è sentita tradita da quel mio tentativo arrogante di baciarla. Da quel giorno in facoltà non ci vediamo più. Io sono sempre rosso di vergogna ogni volta che cammino per i corridoi. Temo di rivederla e temo che lei mi ignori per sempre. Il suo messaggio è stato chiaro, per me non c'è spazio. Passa il tempo, dopo un anno e mezzo è il momento che torni a Roma, il master è finito. Di Ariane non ho più notizie. Non so che fine abbia fatto, non so niente di niente. Io però non nascondo di pensare ancora a lei. Passano 3 anni e un giorno ricevo una mail. Lei mi scrive che sarebbe venuta a Roma con un'amica per un breve weekend. La prima cosa che ho pensato quando ho visto la mail, ho detto non le rispondo, è acqua passata, forse non serve a niente, ma che la vedo a fare, adesso faccio altro. E poi in realtà le ho risposto e poi mi sono detto perché no, forse ci può essere un inizio anche se troppo tardi, anche se sono tornato ormai a casa. Io rimango di sasso. Di getto penso che non voglio incontrarla, è stata chiara con me all'epoca dei fatti e ho voltato pagina. Non sono un tipo che pensa che ci sia una seconda possibilità. È stato un tentativo fallito, chiusa lì. Certo, non esco con nessuno, ma non ho voglia neppure di rivederla, è acqua passata. Eppure mi lascio vincere dalla curiosità di vedere quello che è diventata. Accetto di incontrarla a Piazza Trilussa, a Roma. Quella piazza non so perché mi rilassa. Ci incontriamo. Mi dice di essere venuta per staccare dallo studio. Prepara un concorso. Decidiamo di passare la serata insieme. Andiamo anche a ballare, come allora. Ballo con lei e sento che è ancora lei che voglio. Quella luce che si è accesa la prima volta che l'ho intravista in facoltà torna a riaccendersi. Siamo soli. Usciamo per prendere un po' d'aria e facciamo due passi. Il tempo ha riprodotto esattamente quella stessa situazione verificatasi alla residenza universitaria. Però questa volta va meglio. Questa volta Ariane mi bacia. L'uomo che sapeva esattamente cosa fare. Ecco, io per anni ho preteso di essere quell'uomo lì. Sempre al posto giusto, con le parole giuste, la camicina giusta, mai a disagio. Poi mi sono annoiato di me stesso. Non saprei definire diversamente la cosa, è andata così. Mi sono visto allo specchio e ho pensato, che noia. I primi tempi non è stato facile. Mi ero costruito una bella impalcatura, ma pezzo dopo pezzo l'ho smontata. E adesso non mi rovino la giornata se sbaglio qualcosa o se sono in ritardo. Accetto quell'imperfezione e va bene così. Mi sono annoiato di me stesso una mattina, durante un incontro per un nuovo lavoro, quando mi sono trovato di fronte a un altro uguale, identico a me. Non dal punto di vista fisico, in quello eravamo diversi, ma anche lui si era costruito l'identità dell'uomo che sapeva esattamente cosa fare. Il colloquio si è trasformato praticamente in un ring. Abbiamo fatto a gara a chi dovesse essere più compiacente, io con lui o lui con me. Giocava la mia stessa partita e fin qui tutto bene, ma il fatto che usasse le mie stesse armi mi spiazzava completamente. Entrambi volevamo convincere, sedurre, soddisfare l'altro. E se io facevo una battuta, lui la continuava, come se la stessi continuando io. Le sue conoscenze erano le mie, i suoi gusti erano i miei, la sua bravura era la mia stessa. E quel giorno, mentre tornavo a casa in Vespa, continuavo a pensare, non può essere, non può essere. Tornato a casa mi sono guardato allo specchio e ho visto lui. Ed è stato in quel momento che mi sono totalmente annoiato di me stesso. Meglio sbagliare qualcosa, mi sono detto. Prendere una posizione personale. Non metterò d'accordo tutti, ma pazienza. Almeno non mi annoio da solo. Una volta, a questo proposito, mi piaceva una ragazza. A lei piaceva molto la montagna, anche a me piace la montagna, ma a quell'epoca non mi ero ancora annoiato di me stesso e il mio ruolo era quello dell'uomo che sa esattamente cosa fare. Così quella volta ho voluto strafare. Quindi le propongo un fine settimana a campeggiare dove capita con la tenda in montagna. Lei non si tira indietro, io forse avrei preferito di sì, ma dimostro di essere entusiasta ovviamente all'idea. Il sabato mattina presto partiamo e all'alba siamo già sul sentiero. Il programma è raggiungere un alpeggio, dormirci e l'indomani da lì raggiungere un bel 3000 metri. Il tempo è bello, l'aria è ottima. Saliamo e parliamo, la giornata si presenta alla grande. Dopo un paio d'ore di salita, il primo contatto fisico. Mi chiede di allungarle una mano mentre guardiamo un ruscello per non scivolare sui sassi bagnati. Le stringo la mano, poi scivolo io su un sasso e mi bagno un piede, ma faccio una battuta e ce la ridiamo. So anche essere autoironico. Dopo parecchie ore di cammino arriviamo all'alpeggio. Monto la tenda. Preferirei montarla accanto alle baite, mi sentirei più sicuro, ma lei dice: accanto al laghetto, è bellissimo. Fantastico, rispondo io, e armeggio coi picchetti nel fango del laghetto. Il tramonto è bellissimo, davanti a noi montagne rossastre, ormai troppo alte per avere vegetazione, e il nostro 3000 lì che ci aspetta. Prima però ci aspetta la notte, stretti al chiuso della tenda che potrebbe riservare qualche sorpresa. Invece la sorpresa arriva dall'alto, il cielo si copre di nubi e comincia a piovere. Io ho montato la tenda troppo vicino al laghetto. Il terreno già fangoso in partenza si inzuppa completamente. Ho la sensazione di sprofondare con tutta la tenda. Il pastore con cui avevo stretto amicizia nel pomeriggio ci viene incontro, ci propone di dormire in baita da lui. Io guardo lei e lei dice: sì, grazie. Ecco, non era questa la sorpresa che aspettavo. Dormiamo in un letto a castello. Lei dorme, io non chiudo occhio perché il letto è troppo corto per me. L'indomani, all'alba, lei è raggiante, io muoio dal sonno. Salutiamo il pastore e partiamo. Raggiungiamo il nostro 3000 nel primo pomeriggio. Non abbiamo neanche il tempo di un abbraccio, che da lontano vediamo avvicinarsi altre nuvole e scendiamo subito dalla vetta. Superiamo la prima vegetazione, superiamo il laghetto dove la notte prima ho rischiato di sprofondare, superiamo anche il pastore che ci ha fatto dormire. Ma proprio dove il mattino del giorno prima c'era stato il primo contatto, quando mi aveva chiesto di allungare la mano per passare il guado, lì ci fermiamo. Quello che ieri mattina era un piccolo ruscello, oggi pomeriggio è un torrente vorticoso. Il ghiaccio è poco più in alto e al pomeriggio, col sole di tutta la giornata, la neve si scioglie e si riversa nel ruscello, ingrossandolo. «Tocca aspettare domattina», mi dice lei. Le nuvole, minacciose fino a un minuto prima, si diradano. Io monto la tenda e intanto scende la notte, di un nero che non sono abituato. Il torrente fa rumore, io non aspettavo altro che quel momento, ma in quel momento sono stravolto dalla camminata, dalla stanchezza e dalla delusione. Ma proprio mentre sto analizzando che cosa ho sbagliato, lei mi dice: non sarà che dopo tutta questa fatica mi dici che sei stanco? E mi bacia. Come uomo che sapeva esattamente cosa fare, non avevo proprio capito niente. Però quella sera non mi sono annoiato di me stesso. Honey, won't you please sing another song? Honey, won't you please be gone? Your sentimental shake there rattles through my bones. Honey, won't you, honey, please move your honey on. But you don't know, never will hurt you. Don't you know that I used to pray like all the others on what you never will. Honey, won't you, honey, please hold that honey still. Honey, won't you, honey, please hold that honey still. Honey, won't you, honey, please hold that honey still. Il mio errore? Ho denunciato il furto della mia auto, ho preso il rimborso dell'assicurazione, ma in realtà avevo soltanto scordato dove avevo parcheggiato la macchina. Andrea, 349-238-6666. Un errore come questo dice molto di voi, dice molto di Andrea, direi. Probabilmente le persone che lo conoscono lo sanno meglio di me, sicuramente, forse anche meglio di lui. Un errore piccolo, micro o macroscopico, che però in qualche modo dice qualcosa di voi. 349-238-6666, qualcuno scrive: se non gliela dava, lanciavo le tesserine del mosaico contro la radio. Quindi mi immagino un uomo che sta facendo un mosaico e spera che la francesina, la, Ariane, sia compiacente nei confronti di Edoardo. Gianni invece scrive: ma mi sembra più che altro una storia presa da un Harmony. Gianni, d'altra parte, le vite di ognuno di noi si avvicinano moltissimo alle trame di un Harmony. Pronto, Edoardo? Buongiorno Matteo. Come stai? Bene, tu? Io sto benone, dove sei? Sono a casa dei nonni. Perché sei a casa dei nonni, scusami? Perché dovevo essere da queste parti a quest'ora. Il che vuol dire a casa dei nonni dove? Sempre a Roma, vicino Piazzale Clodio. Senti, Edoardo, la prima cosa che mi viene da chiederti è, immagino appunto di interpretare il desiderio di molti, come diceva quel messaggio, l'ultimo messaggio che ho letto, è com'è finita la storia? A che punto siete adesso, tu e Ariane? Siamo che questa sera la vado a prendere all'aeroporto perché viene a trovarmi qualche giorno a Roma e poi spero di vederla qua un po' più a lungo quest'estate. Ma scusami, ma nel senso che vi rivedete una volta ogni tanto o che state insieme? No, stiamo insieme. Ma questa è la notizia del giorno, scusami. Puoi farmi un'ansa? Puoi chiedere alla Chioda per piacere se mi fa un'ansa immediatamente. Da quanto state insieme? Ormai è un anno e un mese, sì. Ma da quel giorno lì? Da quel giorno lì. Qual è stato l'errore più grande che hai fatto con lei dopo quello? Dopo averci, diciamo, che poi... Diciamocelo, Edoardo, non è un errore cercare di baciare una ragazza? No, non è un errore, è un tentativo di comunicare qualcosa. Questo è un bel modo per vederla da un'altra parte, da un altro angolo. Hai fatto però un errore grave con lei da quando state insieme? L'errore grave che ho fatto con lei? Ma no, un errore grave no, dovrei imparare ad ascoltare un po' di più, ecco, forse sì questo. Questa però ormai è la risposta che i maschi danno di default, perché sanno che questa è la cosa che di default dicono le donne, che i maschi non sanno ascoltare e che i maschi pensano ai fatti loro. Dimmi a che punto sei con lo studio invece, Edoardo. Allora, con lo studio è andata a finire, che peraltro il master non l'ho ottenuto, quindi sono tornato in Italia, dove però ho vinto una borsa di studio per scrivere la tesi all'estero, quindi ho passato del tempo quest'inverno a Parigi per scrivere con lei e adesso mi sto laureando. Ma quanti anni c'hai, Edoardo? 26, quasi 27. Che per giurisprudenza è giusto? No, non è giusto, perché dovevo sbrigarmi, dovevo finire un po' prima, però è andata come è andata, va bene così. E che cosa fai da grande? L'avvocato, immagino, o no? Non lo so, sì. Credo che comincerò la pratica e poi vedremo qualche concorso, vedremo. Sì, dove andate stasera? Stasera dove dormite? Dormi a casa tua quando vieni a Roma? Prendete un bed and breakfast? Stanze separate? Siamo giustamente a casa dei nonni ed è per questo... Ecco perché sei passato dai nonni, perché esatto. Devi preparare il letto. Esattamente. Devi passare un po' l'aspirapolvere perché magari pure allergica e preparare il letto. Però devo dire che le case dei nonni mai sono state utili come in questi casi, con quei mobiloni antichi che tornano, che tanto chi li vede i mobiloni antichi? Esattamente. Ma scusami, perdonami, i nonni ci sono ancora o non ci sono più e hai a disposizione la casa? La seconda. Ah, ok. Nel senso che avrei trovato un po' inquietante effettivamente avere i nonni in una stanza. No. Sì, la seconda. Benedette le case dei nonni. Edoardo, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Ciao a presto. Ciao, grazie mille. Voi siete qui. Non potevano che essere in due, ovviamente, nella foto che ci ha mandato Edoardo. Cioè sono, manco a dirlo, sono lui e lei, Edoardo e Ariane. E me li immagino sulla Senna, perché la mia immaginazione è scarsa, ovviamente, ma sono la riva di un fiume, alle spalle hanno delle bateau, hanno delle barche, lui ha su un giubbotto nero, un maglione rosso, lei è imbacuccata, sembra un autunno caldo parigino. Ma soprattutto la foto ha su tutti i tipici filtri che si usano appena scopri Instagram. Moto accidentale dall'alto verso il basso, con conseguenze spesso dannose. Figurato, capitolazione, resa di una città o di una fortezza. Nell'attrezzatura navale, ciascuno dei due lati verticali delle vele quadre e il lato verticale poppiero delle vele auriche. Il lato verticale poppiero delle vele auriche. In balistica, angolo di caduta, quello che la tangente alla traiettoria nel punto di caduta fa con l'orizzontale. Nel linguaggio borsistico, caduta dei corsi, il momento di inizio o di accelerazione di una fase di calo delle quotazioni dei titoli. Etimo, dal participio passato di cadere, data secolo XIII. Matteo! Ringrazio Pietro Lacorte che oltre a così pronunciare il mio nome ha mandato anche questo pezzo del dizionario che per chi non l'avesse capito dava il significato non del termine errore ma del termine caduta. Abbiamo deciso di, in maniera arbitraria come facciamo abitualmente, di mettere insieme due termini e due concetti, no? Fare un errore come quello che Edoardo fa quando cerca di invitare la sua ormai fidanzata, non invitare, cerca di baciarla e non ce la fa, alle cadute. E per parlare di cadute, in apertura vi ho letto le prime righe di questo libro che si intitola Le più strepitose cadute della mia vita, immaginando appunto che le cadute siano un po' degli errori. E abbiamo al telefono l'autore del libro, che è Michele Dalai. Pronto Michele, buongiorno. Eccomi, buongiorno a voi. Come stai? Molto bene, molto bene. Sei... I piedi, non sono ancora caduto. Senti, noi facciamo una cosa che non si fa di solito, Michele, cioè che ti chiamiamo per un libro che tu hai scritto ormai un anno e mezzo fa, giusto, più o meno? Sì, guarda, un anno fa. Un anno fa preciso, quando in realtà ne è uscito un altro, di recente. Sì, però è molto bello parlarne un anno dopo, nel senso che okay. Vuol dire che qualcosa poi resta di buono. No, nel senso che immagino gli uffici stampa della casa editrice che si stracciano le vesti dicendo no, ma c'è quello nuovo di cui devi parlare. Ma noi faremo finta di nulla. Parliamo di questo che secondo me ha un valore, poi rispetto a quello che dicevi tu ne ha uno ancora più forte. Io poi sono un teorico della caduta come non errore, Michele. Esatto, infatti la prima cosa che volevo chiederti è questa qua: ma la caduta è un errore? Ma guarda, dal punto di vista puramente fisico no, ti riavvicini alla gravità, è una cosa che ti riporta a terra e quindi è quello che dove dovresti stare naturalmente, dove vorrebbero tu stessi. E io la vivo come assolutamente non come un errore, qualcosa di molto naturale che mi ha portato poi a scriverci un'infinità di pagine, ma che a me diverte anche considerandolo dal suo punto di vista più coreografico. Mm-hmm. Poi ne ha uno invece psicologico che dipende poi dal cadente, da chi casca, da come lo affronta. Certo. Io ci trovo molto di umoristico. Giusto per correggimi se sbaglio in corsa, lo faccio velocemente. La storia, la trama è abbastanza semplice. Siamo a Milano nel 1997, perché è un periodo particolare quello per l'Italia e per questa città. Il protagonista è Antonio, che sostanzialmente è un giovane uomo che cade di frequente e lo fa esatto. Nei momenti più e meno opportuni della sua vita. Michele, io ho cercato una biografia coerente di te, ma è molto difficile trovarla, nel senso che... È un pasticcio. È veramente un pasticcio, perché si parte, no, chiaramente sempre dai geni e dalla famiglia, da dove uno arriva, poi si passa, quindi, insomma, la famiglia di editori, poi si passa per il giornalismo, la TV, i libri, ovviamente, lo scrittore, e poi però tu di fatto hai si dice, fondato un'altra casa editrice. Sì, in buona sostanza io faccio l'editore, guarda, poi... L'ambizione di poterlo fare comunicando anche, che è quello che facciamo tutti noi, che facciamo questi mestieri meravigliosi della comunicazione appunto, però dovendo semplificare la mia poco interessante autobiografia, direi che sono un editore a tutto tondo. E a proposito di questo, com'è creare una casa editrice nel 2010? Quando l'avete fondata? Due anni fa, tre anni fa? Nel 2010. Nel 2010, cioè, che cosa spinge una persona sana di mente, in sostanza, a creare una nuova casa editrice in quest'epoca? Ma diciamo che la speranza che questo momento poi abbia, come dicono quelli che parlano, lo sentivo prima nel lemma del dizionario, che ci sia poi un rimbalzo, prima o poi deve arrivare, quindi siccome smettere di leggere e soprattutto di pubblicare libri sarebbe del tutto innaturale e stupido, uno ci prova anche in un momento del genere. E a questo proposito c'è una cosa che volevo chiederti, è una curiosità personale ma mica tanto, no? Nel senso che si chiama ADD la tua casa editrice. Sì, esatto. E siete in tre sostanzialmente, siete tu, Di Leo che è Busta dei Subsonica. Dei Subsonica e Andrea Agnelli, giusto? Esatto, per questo ADD sta per Agnelli, Dalai e Di Leo. Esatto, poi veniva fuori anche un anglismo divertente, perché aggiungere in inglese tu Ed, ma insomma, quelli sono i tre cognomi. È complicato per un interista, non dico convivere e lavorare con un juventino, ma con il presidente di una squadra di calcio che non è la tua, diciamo, che è la Juve, tra l'altro, poi, non è che... Sì, no, esatto, che è proprio la Juve. Diciamo che quando è successo Andrea non faceva il presidente della Juve, pur essendo nel suo cuore DNA e sangue, come dicono, non so che chi si parla di calcio va a parlare di DNA quando si certo, parla. Certo. No, è complicato quando parliamo di calcio, ma siccome noi ci giochiamo anche insieme a pallone, Diciamo che risolviamo le nostre vertenze sul campo. Ok, le appiatti, le rendete orizzontali su un campo di calcio invece che verticali sugli spalti. Parliamo di errori invece, anche se non la consideri un errore, una caduta, però oggi noi raccontiamo quello partendo, come facciamo sempre, da una storia che è raccontata da una persona che scegliamo e trasformiamo in puntata. Qual è l'errore che racconta più di Michele Dalai? Quello che ti rappresenta meglio? Ma guarda, io credo che se sia più una caratteristica che non un errore, continuo a sostenere, quindi non è uno singolo, come intuirai, è ripetuto e reiterato nel tempo. Ho molta fiducia nelle persone, questo è una cosa spaventosamente grave di questi tempi. Reiterare questo errore costa molto, però preferisco continuare a farlo, ecco. Diciamo che se devo trovare un errore costante di questi tempi, ma succede nell'esercizio della mia professione, fondamentalmente a volte anche nei rapporti umani, quella è una forma di caduta molto dolorosa, ecco, perché poi purtroppo è più difficile ritirarsi in piedi con la stessa fiducia di prima. Ecco, guarda, rimaniamo proprio lì, rimaniamo sul lavoro. Qual è l'errore più grande che può compiere un editore oggi? Ma in questo momento è quello di considerare questo lavoro un mestiere borghese degli anni Ottanta, nel senso che continuare a pensare che esiste una forma di mecenatismo che lo tiene in piedi, che in fondo i libri sono un lavoro da fighetti, diciamola così, che si può sostenere nonostante non segua le regole del mercato. In questo momento, che è un momento di crisi dei consumi voluttuari spaventosa, l'editoria deve tentare di produrre profitti come tutti, se no risulta inutile e chiude purtroppo. L'errore quindi è continuare a pensarla in un altro modo, a ritenersi una ristretta cerchia di piccoli eletti. Bisognerebbe cercare di stare sul mercato, di vendere questi libri e di far girare le idee che questi libri contengono. L'altro errore è quello di rifiutare dei bestseller, ma insomma quello... chi può saperlo mai, no? C'è gente in America che ha rifiutato 50 sfumature di grigio, probabilmente ci sta ancora pensando adesso. Esatto. Però è anche una scelta editoriale alla fine quella, no? Sì, sì, che uno può anche rivendicare, cioè io avessi rifiutato le 50 sfumature, magari non dormirei benissimo, ma ne andrei ancora fiero. E poi ti saluto, Michele, l'ultima cosa, tornando alla storia di oggi, perché l'errore di Edoardo era un errore fatto con una ragazza, qual è l'errore più grande che è fatto con una donna? Posso rispondere con questa risata? Okay. Perché, no, è stato a un certo punto, guarda, dirò la cosa che penso, è stato a un certo punto pensare che quella che ora è la mia signora, che è mia moglie, potesse non essere più la mia donna. E quello è stato un errore molto grave e per fortuna ho avuto il tempo e il modo di recuperare. Michele, ti ringrazio. Per far contento l'ufficio stampa, ci dici anche il titolo dell'ultimo libro che è uscito sempre per Mondadori, giusto? Guarda, l'ultimo libro è quello che direbbero a Parigi una botta di culo, perché si chiama Contro il Tiki-Taka ed è un libro contro il Barcellona, uscito nell'anno in cui il Barcellona ha giocato malissimo. Perfetto, quindi proprio là, diciamo, quello che molti definiscono la fine del barcellonismo è consacrato da questo libro. Ti ringrazio molto, Michele Dalai, grazie ancora, buona giornata. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Come dice Elio, prima è necessario limonare, qualcuno giustamente cita l'ormai maestro, no, per diversi motivi, a proposito di un argomento che è abbastanza comune a lui e alle sue canzoni. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, come al solito Alessandra De Luca, che è di là dal vetro e che viene ad ascoltarsi ogni tanto il suo dizionario, Pietro Lacorte, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Qualcuno mi scrive che questa puntata assomiglia a una puntata, a un'atmosfera da Rosamund Pilcherer o Pilcherer, che non so chi sia, ma mi ricordo Pilcher, la scrittrice americana, esatto, è una scrittrice che leggeva mia nonna, e quindi direi che sono felice di chiudere in questo modo. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Edoardo, perché la storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Letizia Lusini, abito a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena. La storia di domani è la mia. Parla di persone incontrate nella mia infanzia. Questa è la mia storia e io sono qui.